sono sospettosi verso il programma o sono così di loro? Forse sono sospettosi verso di me più che il programma. Forse potresti provarci tu con quelli. Posso provare io, vediamo se cambia qualcosa, ma non credo. Perché sembrerebbe, almeno finora queste sono le notizie ufficiose che mi stanno dando, sembrerebbe che anche con questa chiusura dei musei il nuovo Forno del Pane continua a funzionare, nel senso che giustamente era un progetto che era stato pensato per un eventuale secondo lockdown. Adesso che abbiamo un quasi eventuale secondo lockdown, gli studi continueranno a essere aperti. Teoricamente il progetto finisce il 31 dicembre, quando probabilmente molti di loro decideranno di fare il festone di Capodanno dentro al Mambo e occuparlo per sempre, per cui insomma non so che cosa succederà. Bella l'idea dell'occupazione del Mambo. Io mi ricordo che ci fu tanti anni fa questa esperienza del Teatro Valle, che fu occupato dagli artisti e c'erano delle cose molto belle in quel periodo. Per un sacco di tempo, fra l'altro. No, questo progetto naturalmente è istituzionalissimo e prevedeva, o prevede ancora, cioè per il momento prevede che finisca il 31 dicembre, perché dopo ricominceranno la programmazione delle mostre del Mambo, per cui siamo tutti molto speranzosi di poter avere appunto la personale di Aldo Giannotti, che è una delle mostre che è stata posticipata indefinitamente. Fatto sta che stasera sentiremo le parole di Letizia Calori e Alison Grimaldi Donahue. Alison è interessante perché è l'unica scrittrice del gruppo, non è un artista visiva, e giustamente ha pensato di fare domanda lo stesso, perché aveva bisogno appunto di un posto dove operare creativamente, e dunque eccola qua, l'ascoltiamo. Arte contemporanea. Alison Grimaldi Donahue, hai un doppio cognome di cui metà straniero e poi sei una scrittrice. Cosa ci fa una scrittrice al Mambo? Sì, allora, perché io credo molto che la scrittura è un'arte, quindi va messo dentro gli ambienti anche artistici un po' di più che di solito che si fa. Cioè, io scrivo poesia e saggistica più che altro e scrivo anche di arte contemporanea, quindi quella è una parte per cui sono risultata qui. Ah. E anche perché, cioè, quando scrivo poesia faccio anche degli interventi performativi spesso. Cioè, negli ultimi anni ho fatto letture performativi, performance, creo anche dei libri. Quindi come si usa un po' negli Stati Uniti. Tu sei mezza statunitense o sbaglio? Sì, sono statunitense proprio in realtà. Ah, okay. Cioè, sono anche italiana. Sì. Però con la cittadinanza riacquistata dai miei nonni. Ok, fantastico. 8 anni fa, che erano siciliani i miei nonni. Sì, quindi da parte di mia madre era siciliana tutta la famiglia, da parte di mio padre irlandese. E così. E quindi io vivo in Italia fissa da 10 anni. Sì, la mia tradizione è molto legata al New York School. Di Frank O'Hara, di James Schuyler. Però finora c'è anche come persone di Clyde Coolidge, Eileen Miles, Lisa Robertson, poeti che scrivono di arte. Un poetry slam qua in Italia, credo che sia successo una volta. Ma un poetry slam non è il mio. Non è il tuo stile. Però faremo, faremo letture di poesie qui dentro un museo. E durante orari normali, quindi non sarà un evento, sarà un happening, diciamo. Ok. A novembre, la prima settimana di dicembre, poi ci sarà un annuncio, però sì, cerco io di portare dei poeti bolognesi anche dentro il museo. Ah, che bello. Scriveranno anche delle opere esposte. Sì, è un modo diverso di scrivere di arte, c'è una critica più emotivo, più sensibile e meno accademico, diciamo. Pensi che una cosa del genere aiuti il pubblico? Mm-hmm. Cioè avvicini il pubblico? Sì, perché credo che soprattutto con l'arte contemporanea tanta gente pensa che sia una cosa estranea da loro. Mm-hmm. E quindi di avere dei poeti che non sono necessariamente esperti dell'arte, però sono esperti dell'esperienza, sono esperti delle sensibilità. Credo che questo è il lavoro del poeta più che altro. Di aprire questa possibilità anche al pubblico di relazionare con l'opera di arte come oggetto vissuto, non un oggetto distante, estraneo, un oggetto che va, cioè una relazione. Premettendo che io sono d'accordissimo sull'avere un poeta qui in mezzo ad artisti visivi, mi chiedo appunto quanto sia necessario per te essere qui anziché essere nel caldo della tua casa. Cioè, mi metto un po' nei panni di magari, tu sai che erano 220 persone che hanno, artisti che hanno fatto domanda per questo spazio e appunto siete stati scelti in 12, per cui in un certo senso siete dei privilegiati. Appunto, mi chiedo se sia necessario per te essere qui. Beh, sì, su vari punti di vista è molto necessario. Prima, come tutti, lavoro molto meglio quando non sono in cucina. Certo. Però anche il fatto che, come vedi, tutti qui, non è che ognuno ha bisogno di spazio gigante, e quindi come uno che lavora sul digitale, come uno che lavora su una piattaforma di fotografia, non lo so, cioè ognuno fa loro qui, quindi gli spazi sono gestiti un po' così. Però anche il fatto, cioè, è una questione di collaborazione, e quindi già, cioè, con la parola, di portare la parola un po' più presente nel mondo di arte, questo è il mio lavoro, un po' di, cioè, riavvicinarci tutti a questo aspettativo. Quindi già con Vincenzo Simone stiamo lavorando su una conferenza su Morandi, un intervento poetico, poi sto scrivendo una cosa per Ruth, che è un altro artista qui, Ruth Behara. Quindi sì, cioè, è anche fatto, le scelte sono fatte per una questione di collaborativa. Siamo molto diversi qui e quindi spesso c'è questa interazione che porta le forze di chiunque dentro un progetto nuovo. No, mi sembra una cosa fantastica, concettualmente forte, appunto, di cui c'è bisogno, soprattutto in una società come quella italiana, in cui le specificità sono molto separate. Sì, no, questa è la mia battaglia della vita, esatto. Credo. Cioè, io immagino che tu, essendo di scuola anglosassone, queste cose le senta probabilmente anche più di me. Sì, non è di tutti, neanche negli Stati Uniti, neanche in Inghilterra. Cioè, credo che la poesia legata al mondo di arte è ancora una roba molto di nicchia. Cioè, ci sono quei poeti puri che lavorano solo in quel mondo. Io sono molto più aperta alla contaminazione. Cioè, stavo leggendo, infatti in questi giorni c'è un libro di Bill Berkson, che era uno dei scrittori principali del New York School, che lavorava per tanti anni con Philip Guston, cioè scriveva di lui, facevano delle collaborazioni. Ha fatto un saggio, si chiama Painting and Poetry, in cui diceva praticamente bisogna ognuno portare la loro pratica a fare una camminata, cioè nel senso bisogna andare dalle altre parti, vedere danza, vedere teatro, vedere il cinema, cioè vedere un performance, ascoltare la musica, anche se tu fai scultura, tu fai poesia, perché comunque tutte le idee possono aiutarci, possono infiltrare. Anche perché di base, appunto, è la filosofia che ci guida. Sì. Io credo tutti i creativi, sì, siano guidati soprattutto da un pensiero filosofico di base. No? Sì, e poi, cioè, non sai mai, cioè, mi sono resa conto, cioè, con Vincenzo di là faccio, sì, un'indicazione, sì, anche se è radio, e alla fine abbiamo tantissime cose in comune, anche se io scrivo poesia e lui fa pittura. Certo. Cioè, di base la filosofia di ognuno di noi ha molto più in comune che io con un altro poeta qualsiasi. Quindi non si sa mai il principio da cui si appartiene al lavoro. No, no, è decisamente una bella apertura la tua. Ma tu hai dovuto reimparare l'italiano o lo sapevi già? No, non sapevo, cioè non lo conoscevo. Cioè, io ho imparato italiano, c'è, cioè, un percorso lungo, e sono l'unica persona nella mia famiglia che parla italiano. Immagino. Cioè, infatti, i miei nonni parlavano un po' di dialetto fra, okay, di loro, che nessuno capiva comunque, perché era antico praticamente. Tra l'altro Grimaldi di queste parti, sbaglio o no? Beh, è torinese come nome, okay, è di Genova, mm-hmm, però loro, cioè tutta la famiglia dei Melilli, in provincia di Siracusa. Ah, ok. Che praticamente tutti i Melilli sono andati a vivere a Middletown, Connecticut. Cioè, ah, tutto il paese. Se vai a Melilli, okay, oggi sono tutti i miei cugini. Incredibile. No, ma io ho studiato, ho fatto Erasmus a Perugia. Ok. E poi ho fatto una magistrale in italianistica a Firenze. Quindi è un po' avanti e indietro. Sono a Bologna da 10 anni. Brava. Cioè, parli benissimo. Grazie. Bene. E non so più che cosa chiederti. Che cosa vuoi dirmi anche? che io spero com'è, che... Com'è questa esperienza? Vabbè, un po' me l'hai già raccontata. No, è molto bello, cioè è molto bello, è una, veramente la cosa più forte di questa esperienza è conoscere nuovi artisti e collaborare con loro, però anche avere un modo di creare programmazione, di portare nuove cose alla gente, cioè di proporre progetti veramente contemporanei e anche di... Non so, di dimostrare il processo di arte più che un'opera finita, perché spesso nel museo, anche dimostrando un archivio che sembra antico, cioè il pubblico è molto lontano dalla produzione dell'arte, cioè, che sembra una cosa quasi magica, che certo che è un elemento magico dentro, certo. Però di vedere che gli artisti vengono ogni giorno a fare una cosa che è una cosa di disciplina più che altro, certo. Secondo me è una bella cosa che va... cioè dimostrata al pubblico che di ripensare invece che uno dell'idea di genialità, che l'idea di persistenza e lavoro, sì, di lavoro, proprio lavoro, lavoro, certo. Un lavoro intellettuale però anche manuale, quindi cioè questo di far vedere veramente cos'è fare l'artista. Esatto. No, sono d'accordissimo con te, infatti è in un certo senso un po' un peccato che il pubblico non possa entrare qui. Ma guarda, un sacco di gente passa tutta, cioè più di, non lo so, certo. Là tanto tempo. Certo, sì, a guardare soprattutto Vincenzo che dipinge. No, poi ogni tanto c'è un po' di gente, speriamo, perché comunque con la programmazione educativa hanno parlato un po' di farli fare, soprattutto ai certo. Ragazzi sarebbe Infatti, bello. Sarebbe bellissimo se non fosse che adesso stanno richiudendo tutti per tutto, sì. Per cui sarà difficile. Per la radio. Bisogna fare tutto per la radio. Assolutamente, anzi, fra l'altro avevano chiuso anche noi, dopo ci hanno riaperto, sì. Però possiamo, per il momento possiamo avere solo un ospite alla volta, perché a me piacerebbe moltissimo che alla fine di tutto questo avervi tutti e 12, anzi 13, sì, esatto. In studio e sentirvi insieme parlare, sarebbe bello. Ok, io ti ringrazio moltissimo e poi ci vediamo qui al Mambo. A te. La nostra carissima Francesca Grispello, che salutiamo dall'ufficio stampa Simpress 44 o Simpress 44, non lo scopriremo mai, ci manda una notizia che è uscito il nuovo disco dal vivo del Bacio della Medusa, si chiama Anima Acustica. Anima Acustica è il secondo album dal vivo del Bacio della Medusa, unanimamente considerata tra le band di punta del prog italiano degli ultimi decenni, naturalmente dopo i Central Unit, perché altrimenti il nostro Riccardo Lolli ci uccide. Dopo la svolta stilistica impressa nell'eterogeneo Seme, ultimo disco in studio pubblicato nel 2018, il gruppo perugino ha deciso l'anno successivo di giocare la carta della sperimentazione acustica, che è una mossa azzeccata appunto, come testimonia questo nuovo release di AMS Records. Anima Acustica è registrato dal vivo il 19 ottobre 2019, per cui più di un anno fa, adesso è uscito e noi ci ascoltiamo La Sonda, e questi sono il Bacio della Medusa. Giorno dopo giorno scoprire. che sarà. Troppe le perplessità e poche le risposte che un uomo si darà, ma siamo soltanto polvere avulsa dal bagliore delle stelle e ricerca la luce. C'è in fondo agli occhi di un bambino e ci appanniamo l'esistenza ad afferrare con le mani solo il nulla al fioco lume della sera. Della sera. Questa era la sonda. Ciao, siamo le Inky Fingers e facciamo le cose con le fingers. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. L'angolo della menzione. Allora, quindi questo è un angolo della menzione, giusto? Sì, direi che è un angolo della menzione. È un angolo della menzione, niente, io me ne sono accorta una settimana fa di questa iniziativa, mi viene segnalata questa pubblicazione No Home, che è una collaborazione di Collettivo Franco, di cui abbiamo qui Mattia Moro con noi, e Piazza Grande, di cui abbiamo il direttore editoriale Andrea Giagnoglio, giusto Andrea? Sì, del giornale, sì. Del giornale. Che cosa ci volete dire? Che cos'è questa collaborazione e com'è nata? Allora, il collettivo Franco è un collettivo di siamo in sei progettisti, fumettisti, grafici, illustratori, e questo è il nostro primo progetto editoriale collettivo che facciamo. È nato come molti progetti durante il lockdown, il primo lockdown che c'è stato da marzo ad aprile a maggio, in cui ci siamo fatti una domanda molto specifica. Vedevamo dovunque molta della discussione che ruotava attorno al tema della casa e del domicilio, con i vari hashtag, io resto a casa, l'importanza del domicilio, dell'isolamento anche. E ci siamo fatti una domanda relativa a chi non ha questa possibilità. Io sto a casa perché una casa ce l'ha, e quindi abbiamo pensato a come dare una voce direzionata in un progetto editoriale a queste persone. E una delle ipotesi che poi è diventata realtà era quella di creare un progetto editoriale che fosse un progetto illustrativo, un progetto di racconto, anche un gioco di carte in questo caso. Corso spaziale. Corso spaziale. Scusami, ti ho interrotto, quindi dicevi in effetti il bisogno di riflettere un po' su chi la casa non ce l'ha in un momento in cui si è costretti a rimanere a casa. Esatto, e noi l'abbiamo fatto un po' nel modo che sappiamo fare. Molti di noi lavorano proprio con le storie, con le immagini, e quindi ci siamo chiesti in che modo potessimo dare un contributo a questa cosa, in che modo potessimo far uscire qualche voce che non aveva altre possibilità, e in che modo potessimo sensibilizzare un po' su temi, su un tema che in quel momento noi sentivamo urgente. E quindi ci era venuta l'idea di chiedere una collaborazione a Piazza Grande per questo progetto molto matto e molto collettivo. Di base è un gioco di carte alternabili, in cui abbiamo chiesto a 27 illustratori e illustratrici di disegnare una parte di un palazzo, una porta, una finestra, un pezzo di tetto, dandogli già delle linee, come una specie di progetto di un architetto, in cui loro andavano a inserire delle storie a livello di disegni proprio. Fantastico, un po' come il gioco dei surrealisti, i cadaveri squisiti. Esatto, infatti il gioco a cui si ispira si chiama Paesaggio Infinito, è molto simile al cadavere squisito, cioè si prende un po' il limite di quello che è venuto prima di te. In questo caso è spaziale la cosa, quindi hai quattro limiti diversi che sono il sopra, il sotto, destra e sinistra, e modificando l'ordine di queste carte escono fuori sempre dei palazzi diversi. E in ogni carta c'è un'illustrazione. Con il centro dell'illustrazione è sempre una porta, una finestra o appunto un pezzo di tetto in cui ci sono animali, persone, esseri mitologici e altro. E poi invece il coinvolgimento vero e proprio di Piazza Grande è arrivato nel retro di queste carte, perché abbiamo chiesto a Piazza Grande di creare dei contributi che potessero stare dietro a queste tessere, e che potessero raccontare un po' impressioni, sensazioni, qualsiasi cosa che venisse in mente anche in quel momento alle persone senza dimora di cui si occupa Piazza Grande, e anche ad una rete di scrittori professionisti e scrittrici professioniste che collegate al giornale, alle attività di Piazza Grande. Quindi è venuto un discorso molto collettivo in cui ci sono 27 illustrazioni, 27 racconti abbinabili in maniera potenzialmente infinita. Non abbiamo fatto il calcolo, ma le combinazioni sono tantissime. Ah, va bene, dopo io che mi occupo anche dei contenuti matematici della trasmissione, naturalmente vi farò sapere il numero di permutazioni possibili tra queste carte. Quindi che dimensioni ha questa, diciamo, questa pubblicazione, che quindi non è un vero e proprio libro, è più vicino al libro d'artista, diciamo, come idea? Sì, è vicino al libro d'artista, è un set di carte, quindi è come un set di tarocchi o una cosa del genere. Le carte sono più o meno della dimensione di una 5, quindi 22x15, e sono contenute all'interno di questo poster che si apre e spiega il progetto e lo custodisce anche, in cui ci sono appunto i nomi di chi ha partecipato, come è nato, come funziona, e tutte, come se fosse proprio delle istruzioni anche del gioco. Ah, bello, molto interessante. E all'interno di Piazza Grande come è stato accolto, Andrea, questa proposta? Penso, cioè, soprattutto ai Senza Fissa Dimora, insomma, hanno partecipato volentieri? Sì, assolutamente, siamo stati, insomma, molto contenti di collaborare a questa proposta che ci ha fatto il collettivo Franco, perché, diciamo, coniuga vari aspetti su cui noi ci troviamo molto, su cui lavoriamo, insomma, quindi da un lato sicuramente l'aspetto artistico, noi col giornale cerchiamo, insomma, di non solo di raccontare, di scrivere articoli interessanti, ma cerchiamo anche di fare un prodotto bello, che sia gradevole da vedere, che sia piacevole da sfogliare, insomma, quindi cerchiamo di seguire anche noi un po' questo lavoro di cura anche dell'oggetto e di prodotto artistico, insomma. È chiaro, la sociale non è un prodotto artistico, però, diciamo, pensiamo che l'importante sia parlare dei nostri temi, parlare di disuguaglianze, parlare della condizione di vita delle persone senza dimora e farlo anche con, diciamo, linguaggi diversi, crediamo sia molto molto importante per raggiungere più pubblico possibile, per parlare con più persone possibili. E quindi siamo stati appunto molto molto contenti di questa proposta, anche perché fa riflettere in un modo originale e molto bello sul tema appunto della situazione di vita delle persone senza dimora, delle persone che non hanno una casa durante il lockdown, in cui ci dicevano state in casa, restate in casa, era il messaggio che veniva appunto fatto passare a tutti, insomma. E quindi ci piace molto per questo motivo, insomma, perché pensiamo possa raggiungere tante persone e far riflettere con un oggetto bello su questi temi che per noi sono molto molto importanti, anche visto, diciamo, il futuro, insomma. Pensiamo anche solo al tema del coprifuoco, sono tutte questioni, insomma, che per noi sono complicate, insomma, da affrontare, per noi appunto, soprattutto per le persone senza dimora con cui lavoriamo. Esatto. Infatti, ma io mi domandavo, cioè, esistono delle misure, o, cioè, voglio dire, esiste, c'è un piano per chi non ha casa in questa situazione, o non c'è nulla, si lascia, come dire, all'improvvisazione di ciascuno? No, diciamo, di base c'è, nel senso, da parte del Comune di Bologna attenzione ce n'è, per fortuna, e quindi, non so, l'anno scorso per esempio, appunto, cioè l'anno scorso a marzo, il Comune ha prolungato il piano freddo, che è questo piano straordinario che prevede centinaia di posti letto in più durante l'inverno come misura salvavita per le persone che dormono in strada. Di solito finisce il 31 di marzo e quest'anno è stato prolungato fino a fine maggio, fino a che appunto il lockdown non è terminato. Poi è chiaro che delle persone in strada ci sono comunque, ed è chiaro che appunto il piano freddo inizierà il 1° di dicembre, quindi abbiamo ancora qualche settimana libera, insomma. Quello però, su questo davvero il Comune e la Prefettura di Bologna si sono impegnate almeno a non fare multe alle persone in giro per la città perché non hanno una dimora. C'è stato un accordo appunto Comune e Prefettura, e quindi, a parte qualche isolatissimo caso, ma si parla di uno o due casi, nella nostra città quantomeno questa cosa accade, insomma, che non si arrivi al paradosso di fare multe per questo motivo. Sì, infatti. E tornando invece alla pubblicazione, quindi che mi sembra, cioè io l'ho già acquistata, ho già dato sostegno al progetto. Ricordateci che cosa si può fare, diciamo, per sostenere il progetto e anche per aggiudicarsene una copia, perché è possibile, naturalmente, dando sostegno al progetto, acquistare una copia di questa pubblicazione. Allora, praticamente in questo momento è ancora attivo il crowdfunding del progetto su Produzioni dal Basso, e siamo a ben più di metà, quasi tre quarti del nostro goal, della campagna. All'interno di questo crowdfunding si può comprare una copia, si può sostenere il progetto senza avere niente in cambio, si possono sostenere alcune attività di Piazza Grande comprando dei servizi come l'abbonamento digitale o l'abbonamento cartaceo o le borsine di Piazza Grande. Oppure si possono fare tutta una serie di combo, quindi una copia più due copie più il poster più la borsina. Ci sono una ventina di opzioni per sostenere il progetto. In questa fase il 30% dei proventi del crowdfunding va direttamente a Piazza Grande. E alla fine della campagna ci sarà una donazione verso Piazza Grande, e dopo, se dovessero avanzare appunto copie che venderemo anche dopo, la metà del prezzo di copertina, quindi il prezzo di copertina è 20 euro, quindi 10 euro andranno a Piazza Grande. Il crowdfunding era un modo per sensibilizzare le persone, per avere una piattaforma che ci piace come Produzioni dal Basso, che sostiene spesso progetti di questo tipo, per permettere una diffusione e per ripagare soprattutto i costi di produzione di questa pubblicazione. Stefano, vuoi deliziarci della tua voce, giusto per far sentire che comunque c'eri anche tu? No, io vi ringrazio moltissimo e volevo appunto dire che da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link direttamente al progetto, così non dovrete nemmeno andarlo a cercare. Quanto viziamo noi i nostri ascoltatori, nessuno mai proprio. Esatto. Bene, allora ringraziamo moltissimo Mattia Moro e Andrea Giagnorio di Collettivo Franco e Piazza Grande rispettivamente, e io penso che sia da non perdere questa pubblicazione. Poi ci troveremo a fare una partitona, questa è la seconda fase, no? Il torneo di No Home. Assolutamente. Volentieri. Grazie mille. Grazie a voi, a presto. Thank you. Come forse avrete letto sui giornali, il Mambo naturalmente è chiuso, ma all'interno del Mambo il nuovo forno del pane è e rimane aperto agli artisti che stanno operando al suo interno. E dunque noi, in realtà questo prima ancora del nuovo DPCMR, siamo andati a sentire alcuni di loro, e questa settimana è la volta di Letizia Calori che abbiamo sentito. Ecco qua la nostra intervista con lei. Letizia Calori, tu sai, ti hanno dato l'ultimo angoletto possibile, ti hanno messo nell'angolo, perché? Ma io sono molto contenta di questo angolo, okay. Dire il vero, perché mi toglie un po' dall'imbarazzo di essere nella zona più cattedrale. Esatto, perché ti guardano sia da sopra che dalla strada. Sì, e poi, insomma, quel soffitto là ti richiede... È impegnativo. Sì, è impegnativo. Invece qua ho proprio il mio angolino e ne sono molto contenta. In realtà, cioè, me l'hanno spiegato il mio spazio, chi li ha assegnati, mi ha detto che ti abbiamo dato questo spazio perché tu lavori... spesso con anche set teatrali o comunque un lavoro che ha a che fare con la scena o con lo spazio, e quindi qua si creava bene appunto già di per sé una specie di spazio da poter allestire, che... No, effettivamente è uno spazio molto bello, anche perché è una luce naturale notevole. Oddio, dipende dai momenti, sì, però oggi è fantastico, oggi è ottimo. E poi soprattutto c'è il retro, che dove nascondo tutte le... No, infatti, questo retro è... No, sono molto contenta di questo spazio, infatti mi è andata bene. Ottimo, ma raccontami di te, perché io e i nostri ascoltatori sappiamo nulla di quello che fai, raccontaci. Dunque, io sì, sono un'artista visiva e lavoro spesso principalmente con la scultura, a volte declinata anche in altri formati, nel senso una scultura che... diventa oggetto indossabile o ha a che fare anche molto con il corpo e con quello che ci mettiamo addosso, e riprendo forme di anche oggetti esistenti, come ad esempio le camicie o questi scudi, ritornano come oggetti che appunto ti proteggono e ti danno in qualche modo sia un'identità e uno schermo contro l'esterno in qualche modo. E questi, in realtà qui sto sviluppando progetti anche molto embrionali e nuovi. E io ho un progetto parallelo di duo con un'altra ragazza, si chiama Calori e Maillard, con la quale abbiamo portato avanti una ricerca da anni che è relativa sempre a questo aspetto del corpo, ma legato più all'architettura come appunto forma di manifestazione di ideologie, di potere e di anche controllo, e come questa si riflette sul corpo e sulla nostra percezione del nostro corpo. Qui sono da sola, sto portando avanti un progetto da sola, e ovviamente la cosa è un po' cambiata. Certo, deve essere strano, perché tu tendenzialmente lavoravi sempre in duo. Sì, abbiamo sempre lavorato in duo, però no, in realtà anche da sole, però insomma le modalità poi cambiano, però sì, è un lavoro adesso decisamente molto più mio, molto più intimo anche, quindi questo aspetto personale, anche di storia personale viene fuori di più ovviamente lavorando da soli, non in dialogo. E questo orecchio che vedo ritorna, che vedo volante, no, questo mi piace moltissimo, quell'orecchio volante è su una base molto, molto leggera e molto alta. Sto indagando queste forme, le forme anatomiche che sono estremità, nel senso ad esempio le orecchie come estremità che ti connettono all'esterno, ma anche come sono spesso state rappresentate, utilizzate nell'arte o comunque nella creazione umana come elemento votivo. Quindi sono spesso gli ex voto, hanno forma di orecchio, certo. In questa accezione di appunto ascolto da parte di una divinità o degli ascolti delle preghiere, si faceva si donava un ex voto e un orecchio come appunto ringraziamento del fatto di essere stati ascoltati. C'è una scena di Amarcord, non so se ce l'hai presente, dove a un certo punto passa la Mille Miglia a Rimini e un ragazzo raccoglie una cosa dopo che sono passate tutte queste macchine e urla un orecchio. Perché non me la ricordavo questa adesso me la andrò a rivedere. Esatto, infatti qua, tutte le volte che vedo un orecchio da solo mi viene da urlare un orecchio. Sì, questo non c'entra niente. E invece queste due sculture semitrasparenti che vedo... una è una scultura in vetro che fa parte di una serie in vetro soffiato. La serie si chiama M ed è una scultura che viene da un calco di un piede preso nel momento in cui si tuffa. Quindi è l'impronta del piede più il vuoto che si crea nel momento in cui ti lanci. E l'idea era quella di fotografare sotto forma di scultura il momento in cui la paura viene persa, l'abbandoni, quindi sì, era riprendere quell'attimo in cui stai per tuffarti e... Capisco benissimo, perché sono stato in Grecia da poco e mi sono tuffato da un posto dove effettivamente avevo un po' paura. Mi è piaciuto moltissimo anche questa idea, questo verbo che hai usato, che è fotografare per un calco. Sì, sì, perché l'idea era proprio quella di trasformare, un lavoro che aveva molto a che fare anche con la trasformazione, nel senso che veniva da un ragionamento... su come si possono tradurre delle formule matematiche in delle formule fisiche, cioè il fatto che la fisica sia una sorta di linguaggio per spiegare la realtà, no? E in qualche modo l'arte fa lo stesso. M infatti sta per la massa, tutto il lavoro completo ha il titolo della formula dell'energia di Einstein, quindi energia uguale massa per costante alla velocità al quadrato. Ok, l'hai studiata fisica un po' per queste cose? In realtà non sono esperta di fisica, mi affascina, non ho una formazione del genere e anzi non... È una di quelle cose che non riesco neanche bene ad afferrare, però ho questa fascinazione verso tutto ciò che cerca di tradurre la realtà sotto altre forme e in qualche modo credo sì, che l'arte faccia la stessa cosa e mi piaceva creare un parallelo, cioè tradurre in scultura una formula che poi fosse anche relativa all'energia, quindi c'è un ritorno anche di questo. No, è molto bella questa idea. E dunque quando finirà questa residenza, che fra un paio di mesi finisce, che programmi hai? Piani bellici. Ah, sì, sei una di quelle che occuperà questo spazio. Esatto, non finirà mai. Non finirà mai, esatto. Finirà tutto. Purtroppo deve finire, però sicuramente speriamo di riuscire a portare avanti quello che qua è iniziato. Perché questa comunque, al di là di tutto, è un'opportunità anche di visibilità notevole, immagino. Sì, sì, sicuramente. Cioè, oddio, in questo momento la visibilità è un po' limitata, perché, nel senso che comunque non potendo ricevere tanti il pubblico fai anche... Infatti. Cioè, c'è questa doppia cosa, nel senso che qua siamo in realtà, ognuno sta lavorando proprio come se fosse un po'... Certo, nel suo proprio studio. Nel suo mondo, quindi... Però ogni tanto qualcuno arriva a vedere. Qualcuno arriva e questo apre, insomma ci si apre, ci si chiude all'esterno. Certo. Che è anche un bel esercizio. Sicuramente, perché insomma tu non stare troppo dentro te stesso. Infatti questo sicuramente aiuta. Ma sono venuti molti galleristi a vedervi? Cioè venite pescati dalle gallerie oppure avete già delle gallerie? Tu lavori già con una galleria? Io non lavoro con una galleria al momento. Sono venuti qualcuno è passato. Ok, galleristi, no, sì. Perché mi sembra naturale, no? Dopo una selezione, appunto, ho visto che Giuseppe, per esempio, non sapeva che avevano fatto domanda in 220 e siete stati scelti in 12, che non è una percentuale. Sì, abbiamo fatto domanda a tante persone, infatti. Perché c'è necessità, secondo me. No, esatto, questo ti fa capire che ci sono 220 artisti senza lo studio a Bologna, che certo. Insomma è un po' preoccupante come faccenda. Sì, infatti questo è un tema che sicuramente è anche sorto tra di noi, nel senso come... Certo. Sì, come organizzare qualcosa che vada avanti e che continui questo progetto e anche che questo vuoto che è stato colmato temporaneamente e per un piccolo gruppo magari possa continuare, essere, certo. Possa essere, cioè, perché se no così rimane una bella esperienza di residenza, però questo poi è sempre la nostra città, nel senso viviamo tutti qui, certo. Quindi è diverso, non ha quell'aspetto esotico di dire vado via a fare una residenza da qualche parte dove poi farò quell'esperienza e me ne andrò. Quindi c'è anche questo strano lascito che adesso infatti dobbiamo capire come... No, infatti stavo pensando che effettivamente adesso con i problemi del Covid è difficile, però sarebbe bello se ci fossero degli eventi per gli artisti qui dentro, cioè non degli eventi, però la possibilità appunto per artisti di venirvi a incontrare, magari fare delle chiacchiere così. Io credo proprio che questo sia possibile, nel senso che si possa facilmente organizzare, quindi se ci sono artisti che vogliono visitare lo spazio, certo. Credo che non ci siano problemi alcuni, e comunque si stanno organizzando anche eventi in cui vengono comunque chiamati artisti o altri operatori a parlare, a fare una conferenza, quindi comunque il progetto è anche aperto per quanto tempi lo permettano. Esatto, possa essere possibile. Bene, io ti ringrazio moltissimo perché i tuoi 10 minuti sono scaduti è vero, e devi scappare. Grazie mille. Grazie a te, a presto. Coxo spaziale! Yeah! Bene, e dunque basta. E dunque tu eri Stefano W. Pasquini. E io ero Chiara Rosso, no, tu eri Chiara Rosso, no, ho sbagliato tutti, allora, e tu eri Chiara Arancio. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E questa volta non una sigla qualunque, bensì un nuovo release di Jenny Owen Youngs, la mia preferita, e questo è Wake Up Acoustic. Promises you don't understand. The people who aren't listening, no one is gonna tear my head away, away. I can't look back and I can't look away, away. No, I can't look away. Swear that I won't ever be just a flash, a memory, a shadow that locks up, hypnotized from watching your ribcage fall and rise. But I'll fade if you just avert your eyes. Away, away. I can't look back and I can't look away, away. I can't look away. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up great or wake up fine. Wake up fine. Wake up fine.